La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sono le 10.30 di questo sabato 24 gennaio 2008 e comincia un'altra puntata di Caccia al Fotone con una nuova sigla. ...333-180-9494 per inviare i vostri sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per inviare le vostre mail. Su internet www.cacciafotone.it. E quest'oggi abbiamo sotto le mani un libro che si intitola Fast Science, la mercificazione della conoscenza scientifica e della comunicazione, a cura di Carlo Modonesi e Gianni Tamino. E al telefono abbiamo il dottor Carlo Modonesi, membro della Fondazione Diritti Genetici. Buongiorno Carlo. Ciao. Carlo, all'inizio abbiamo sempre 100 parole per descrivere l'argomento, quindi libera scelta. Sì, allora il libro è in realtà il terzo volume che io e Gianni Tamino curiamo, che abbiamo curato negli ultimi 3 anni per la Fondazione Diritti Genetici. È un libro che sostanzialmente si propone di parlare della cultura della scienza più che di temi scientifici in senso stretto, con l'obiettivo di far emergere tutte o buona parte delle relazioni che la scienza intrattiene con tutto quello che la circonda, cioè quindi la società, l'economia, l'ambiente, eccetera. Carlo, all'interno della trasmissione proveremo a parlare di questi temi, proveremo a parlare della comunicazione scientifica, di come la comunicazione scientifica sia diventata una specie di spot, quindi le ricerche scientifiche trasformate in una specie di macchietta, però tutto questo nella parte centrale della trasmissione. Adesso ci andiamo a sentire un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e cominciamo veramente a parlare. Bentornati a Caccia al Fotone. Quest'oggi proveremo a parlare di scienza veloce, ovvero di fast science. E al telefono abbiamo ancora Carlo Modonesi, autore, uno dei due autori di Fast Science. Carlo, normalmente noi non siamo soliti recensire dei libri, però quest'oggi ne vogliamo parlare perché questo libro ha un taglio che non hanno gli altri libri in edicola. Cioè, in questo libro finalmente viene descritta una cosa di cui abbiamo parlato, abbiamo teorizzato tante volte, cioè il fatto che la scienza sia diventata una specie di spot, di macchietta, e quindi deve essere trasformata in una specie di merce da vendere. E allora cosa succede se la scienza segue anche lei la legge della domanda e dell'offerta? Io penso che uno dei primi effetti è quello che, come in tutti i fenomeni di produzione seriale di qualche cosa, si abbassa la qualità del prodotto, se vogliamo chiamare la scienza un prodotto. Io però vorrei partire da questa cosa qui, cioè dal titolo. Il titolo è evidente che fa un po' il verso al fast food, cioè alla produzione appunto come stile catena di montaggio di un qualche cosa. Ora, è vero quello che tu dici, la scienza negli ultimi, non tutta la scienza per la verità, ma buona parte della scienza, e in questo momento io mi riferisco in particolare alle bioscienze, è stata soggettata a una logica per cui si pensa che per esempio le ricerche scientifiche debbano essere rapide, pubblicate velocemente sulle riviste, possibilmente a maggior impact factor, poi se si vuole si può scendere anche nella questione dell'impact factor, che è un tema di grande interesse per chi si occupa di politica della scienza, e che soprattutto debba avere un'utilità pratica immediata, cioè debba essere promettente dal punto di vista economico. Perché io e Gianni Tamino da qualche anno ci proponiamo di pubblicare, di far pubblicare e di curare, perché noi non siamo gli autori, siamo i curatori di questi. Sì, è vero, perché è una raccolta di saggi, sì. Esatto, perché poi all'interno ci sono anche i nostri interventi, ma noi oltre ad essere autori siamo anche curatori, quindi in realtà non siamo gli unici produttori del volume. Facciamo questo perché noi pensiamo che nonostante negli ultimi 20 anni ci sia stata una crescita esponenziale delle pubblicazioni scientifiche, anche delle cosiddette pubblicazioni divulgative, cioè quelle dirette al grande pubblico, riteniamo che in realtà questa grande massa di prodotti di divulgazione scientifica non abbia un riscontro, non abbia una conseguenza positiva in termini di qualità della comunicazione scientifica. Anzi, riteniamo che mai come in questo periodo in cui la comunicazione scientifica è diventata quasi un settore industriale, di comunicazione vera in ambito scientifico se ne sia fatta proprio poca. È molto vero. Infatti su questo ti volevo citare un pezzo di Marcello Cini contenuto nel libro, in cui dice che la riduzione a merce di un bene implica sempre che esso venga attribuito un valore qualitativo. È molto vero quello che dice Marcello Cini. Assolutamente sì, cioè lui si riferisce a questo quando parla del riduzionismo. Lui ha fatto una critica serratissima negli ultimi 20 anni alla questione del riduzionismo, e l'ha fatta soprattutto in ambito biologico, anche se lui di provenienza in realtà è un fisico teorico, ma è la qualità del suo ragionamento che è interessante, e lo è anche per i biologi. Abbiamo un esempio che credo sia ben noto a tantissime persone, che è quello del gene, no? Che cosa sta succedendo in biologia e soprattutto nelle applicazioni della biologia? Si sta cercando di far pensare che in realtà tutto quello che è il funzionamento di un organismo sia sostanzialmente la somma dell'azione di singoli geni. Come una macchina, insomma. Esatto, come se un essere vivente fosse sostanzialmente una macchina, cioè un motore in cui ci sono dei pezzi che possono essere facilmente sostituibili, tra l'altro, con altri pezzi, perché fondamentalmente ogni pezzo ha una sua vita autonoma, no? Cioè diventa funzionale insieme agli altri soltanto quando la macchina è in on. Gli organismi invece non hanno il problema di essere in on oppure in stand by. Gli organismi sono sempre in on e non sono costituiti da pezzi a loro volta prodotti da singoli programmi genetici, cioè da singoli programmi contenuti nei singoli geni, che possono essere sostituiti facilmente da un organismo all'altro. Gli organismi sono dei sistemi complessi che funzionano sulla base di connessioni molto complesse che esistono fra il genoma e tutti i livelli superiori di organizzazione biologica, cioè le cellule, i tessuti e gli organi, e in realtà non possono essere considerati alla stessa stregua di macchine. Ora, Cini dice che per poter, per esempio, brevettare un gene, bisogna avere precedentemente pensato che quel gene è un'unità, una singola unità a sé stante che produce soltanto una cosa, cioè è una critica sostanzialmente al vecchio mito della biologia molecolare, il cosiddetto dogma centrale, sulla base del quale si pensava che da un singolo gene si potesse produrre una singola, soltanto una singola proteina e quindi un singolo carattere. Ora il dogma centrale sono più di 20 anni che è stato completamente demolito, però nelle applicazioni della biologia viene ancora utilizzato come se fosse la frontiera più recente della ricerca biologica. Ecco, la critica di Cini è particolarmente interessante perché mette in relazione la questione del dogma centrale della biologia, la questione della brevettazione dei singoli geni e l'utilizzo che l'economia fa di questi due concetti fuorvianti. Senti Carlo, all'interno del libro si parla anche del cosiddetto nesso tra la scienza e potere. È una cosa di cui si parla poco in realtà sugli articoli scientifici o nelle trasmissioni radiofoniche o in televisione. È un tema scomodo. In realtà c'è una liaison dangereuse fra scienza e potere. Qual è esattamente, quale definiresti la liaison dangereuse più importante? Ma io direi che il concetto del rapporto tra scienza e potere è un po' cambiato. Negli anni 60 Barry Commoner scrisse un bellissimo libro su queste cose che si chiamava Il cerchio da chiudere. Barry Commoner è perché è ancora in vita, è tra l'altro un caro amico, e Barry Commoner fece una critica forte alla relazione che si era stabilita negli anni 40 fra il potere politico e la produzione di energia atomica per fini militari. Questa relazione però è un po' cambiata negli ultimi 50 anni. Io penso che la peggior accezione della relazione fra scienza e potere in questo momento è quella che si è stabilita fra appunto produzione di scienza o produzione di conoscenza scientifica, se vuoi, e produzione industriale, cioè e interessi economici. In realtà c'è un'altra cosa che si potrebbe dire: in realtà la scienza può essere distorta, tirata, piegata come un elastico, come se fosse un elastico, anche per altri motivi, per pregiudizi ideologici. Penso per esempio alle ultime affermazioni, anzi non sono proprio recentissime, ma insomma degli ultimi anni, di James Watson, uno dei due scopritori e descrittori della struttura molecolare del DNA, che bellamente si è messo a raccontare in giro che esisterebbero le prove scientifiche che le popolazioni nere sono meno intelligenti delle popolazioni bianche. Ecco, quando la scienza viene utilizzata con questi pregiudizi è chiaramente in preda a pregiudizi di carattere ideologico. Quello che però preoccupa più una parte della comunità scientifica è proprio la relazione pericolosissima che è venuta a crearsi fra produzione di conoscenza e interessi economici. Questo è importantissimo per esempio nelle discipline biomediche, perché è chiaro che per esempio le grandi compagnie del farmaco, che hanno necessità di comparire sulle riviste scientifiche con i loro prodotti, cioè con le loro molecole, con le molecole che loro producono, hanno tutto l'interesse a fare in modo che gli articoli scientifici che parlano di queste molecole ne parlino in maniera positiva, cioè in termini di efficacia farmacologica. Allora, è chiaro che buona parte della produzione nell'ambito della farmacologia è buona produzione, ma è sempre più evidente, questo lo dimostrano le grandi riviste scientifiche come Lancet, come il British Medical Journal, che pubblicano ogni tanto le revisioni sistematiche degli articoli scientifici, è sempre più evidente, dicevo, che molti dei lavori della prova di efficacia dei farmaci in realtà sono contraffatti, semplicemente contraffatti. E molto si potrebbe dire sul come viene portata una notizia dal tavolo del laboratorio al tavolo del giornalista. Veramente c'è una differenza veramente sostanziale, in cui la notizia viene presa, viene digerita, viene trasformata, viene tradotta. Poi c'è un titolista che normalmente è un titolista non scientifico, c'è un giornalista che nella maggior parte dei casi è un giornalista non scientifico, analizza la notizia, viene tradotta male, arriva al pubblico e il pubblico la digerisce malissimo. E su questo in realtà ti volevo chiedere: cosa succede quando la scienza viene ritenuta come una produttrice di una realtà e invece non una produttrice di un metodo che porta alla realtà? Ma due cose, secondo me, sostanzialmente, poi in realtà bisognerebbe parlarne per molto tempo, però due cose sostanzialmente. La prima l'ho già detta, è quella che si perde completamente la qualità del lavoro scientifico, cioè della ricerca scientifica di prima mano, del lavoro di ricerca. Allora la qualità si perde perché l'obiettivo non è più quello di produrre risultati corretti sul piano metodologico, ma è quello di produrre qualche cosa che faccia piacere a qualcun altro, di solitamente chi finanzia la ricerca. La seconda conseguenza negativa, secondo me, è sulla cultura della scienza, cioè su quello che la gente pensa della scienza. Io penso che le persone abbiano una visione molto distorta di quello che è la ricerca scientifica, proprio perché nella filiera, diciamo, che produce conoscenza scientifica diffusa, cioè quella che parte dalla letteratura primaria su cui scrivono i grandi scienziati, fino ad arrivare al quotidiano o comunque alla rivista a grande diffusione, le possibilità di intervento, di manipolazione, di travisamento del significato dei lavori scientifici è talmente vasta che poi il prodotto finale, cioè quello che arriva alle persone che si limitano a leggere le notizie scientifiche sui rotocalchi o sui quotidiani, è devastante. Cioè l'immagine della scienza che la maggior parte delle persone ha rischia di essere un'immagine completamente distorta rispetto a quello che effettivamente la scienza è oppure dovrebbe essere. Carlo, io ti ringrazio per essere intervenuto all'interno di Calcio a Fotone, mandiamo un pezzo musicale e a questo punto sentiremo il secondo curatore del libro Fast Science, che è Gianni Tamino. Ciao Carlo, grazie ancora. Ciao, grazie a voi. Hold me back when I'm on the edge, get ready to drop. I don't wanna die, I don't really wanna die, cause if I did then you wouldn't be with me. You give me strength to overcome the weakness that's come over me. I own you, I own you, I won't let you go, I need you. So where I go, stay with me. What a nice name to have, we will be one. And I'm paralyzed as you take control of body and soul. I'll let you in, let you in, let you in. I won't let you go. E bentornati a Caccia al Fotone. Quest'oggi stiamo parlando di Fast Science. E come ti ho detto già prima, intervisteremo il secondo curatore del libro Fast Science, che è Gianni Tamino. Buongiorno Gianni. Buongiorno a voi. Gianni Tamino è biologo e insegna biologia presso l'Università di Padova. Gianni, noi ci siamo lasciati parlando del discorso del metodo con Carlo Modanesi, ed è una cosa di cui volevo parlare con te proprio per il fatto che in realtà si pensa che il metodo scientifico sia unico e immutabile. In realtà c'è molto dibattito sul metodo scientifico e sul come si arriva alla verità scientifica. Sì, il vero problema è che si dovrebbe discutere se esiste una verità scientifica, perché questa è la premessa. Bisogna tenere presente che l'illuminismo ha favorito uno spostamento, anche ragionevole per l'epoca, del fondamento dello Stato da una verità religiosa a una verità razionale, che diventa poi la verità scientifica. In realtà la visione moderna è che non esiste una verità, ma esiste la conoscenza che è continuamente da mettere in discussione, quindi non esiste un metodo che mi porta alla verità. Tutt'al più possono esistere vari metodi, tutti probabilmente con delle possibilità di dare dei risultati e che possono garantire delle conoscenze. Ecco, in questo senso la visione moderna tende a superare una logica di un metodo rigido, quindi quel metodo scientifico canonizzato, che nel momento in cui è canonizzato mi impedisce di uscire fuori dalle regole imposte. Ecco, la moderna scienza per fortuna è riuscita anche a uscire da queste regole strette e limitate. C'è addirittura un filosofo della scienza, che è Feyerabend, che sostiene che l'anarchia è l'unico metodo possibile per l'avanzamento della conoscenza. Che cosa ne pensa di questi metodi scientifici che cominciano a parlarsi fra di loro? Beh, anzitutto Feyerabend, bisogna ricordarlo, forse storicamente viene molto influenzato, nasce a Vienna, conosce Popper, ma poi si allontana decisamente dalle posizioni popperiane. Infatti sono due, alla fine dei due filosofi della scienza raggiungono posizioni direi quasi opposte, ma a Berkeley sviluppa gran parte delle sue ipotesi e viene molto influenzato dal movimento degli studenti che a Berkeley ebbe nel 68 uno dei suoi apici, e si colloca all'interno di una visione che è quella della rottura con il passato, e anche lui capisce che il metodo scientifico è una gabbia e quindi l'unico modo per avere nuove conoscenze significative, ma senza pretendere di avere la verità, è l'anarchia del metodo, cioè rifiutare un metodo, qualunque sistema che sia quello che sente il ricercatore può andare bene. Non è detto che funzioni, ma nessun metodo gli si può dare a priori una patente di funzionare. Nanni, come mai questo dibattito sul metodo è molto più acceso nelle scienze naturali e molto meno nelle scienze, tra virgolette, esatte come fisica e matematica? È proprio perché questo il cosiddetto metodo scientifico, quello canonizzato che nasce e viene canonizzato pur nascendo con Galileo Galilei, se vogliamo forse anche prima, ma viene canonizzato dal positivismo nell'Ottocento, è un metodo che tende a riconoscere come scientifico solo ciò che è trasformabile in una relazione matematica, ma questo si adatta quasi esclusivamente alla fisica, nel senso che mi permette di descrivere la traiettoria di un oggetto, mi permette di descrivere un fenomeno fisico, ma la stessa fisica poi col principio di indeterminazione mette in discussione la certezza di questa relazione matematica, ma soprattutto, come spesso è stato messo in luce, accanto al paradigma, diciamo, razionale matematico, con la biologia si afferma proprio nella seconda metà dell'Ottocento un altro paradigma, quello della conoscenza scientifica come processo storico di fenomeni che sono inevitabilmente condizionati dal tempo e quindi storici. I fenomeni biologici sono tutti fenomeni storici, fenomeni evolutivi, dove non posso dare una spiegazione con una relazione matematica né posso prevedere cosa succederà nel futuro. Io con te volevo citare un articolo uscito qualche tempo fa su PLOS Medicine, che è una rivista open access, qui si parla di scienza, in cui vengono pubblicati dei lavori scientifici, in cui un editoriale diceva che è sempre più difficile comunicare che esiste l'incertezza nel campo della ricerca. La domanda è molto banale, però è diretta. Perché? Ma perché possiamo dire che siamo di fronte nel mondo della ricerca scientifica, sempre in modo più evidente, alla rottura del vecchio paradigma, cioè questo paradigma positivista basato su una visione meccanicista deterministica. E nei momenti di difficoltà e di rottura di un approccio, in questo caso di un paradigma, è molto più facile ancorarsi e chiudersi a riccio a difesa di questo sistema che sta crollando. E questo spiega perché molti hanno bisogno di questa metodologia quasi ritualizzata, quasi fosse una specie di rituale religioso, e rifiutano qualunque apertura perché hanno paura del nuovo, hanno paura di un paradigma nuovo che deve essere affrontato, che è quello per esempio della complessità, non della certezza ma dell'incertezza, ma che non, ciò nonostante, può aprire spazi enormi di conoscenze senza pretendere di conoscere la verità. E sui casi della comunicazione della scienza mi viene in mente in realtà un caso molto noto che è avvenuto, mi pare, 2 anni fa, il caso del Mycoplasma Laboratorium, in cui Craig Venter comunicò prima a un giornale, il Guardian, la sua scoperta, e poi questa ricerca è stata pubblicata su riviste scientifiche. Cosa succede quando la comunicazione vince sulla scienza, anzi sui metodi canonici di pubblicare la scienza? Ecco, qui non siamo di fronte alla rottura del metodo, siamo di fronte a un nuovo modo di concepire la ricerca e la scienza, cioè non più uno strumento di conoscenza, ma uno strumento per fare affari. In parole povere, e non è il caso solo di Craig Venter, ma ci sono moltissimi altri casi, molti ricercatori mettono in piedi delle proprie aziende e preferiscono annunciare con conferenze stampa, con servizi su organi di informazione quotidiana o comunque di larga diffusione, concetti che poi nel lavoro della rivista scientifica non saranno esposti in quel modo, ma che evocano un immaginario che fa pensare che si possa avere dei risultati straordinari grazie a quella ricerca, e questo come conseguenza fa aumentare il valore delle azioni dell'azienda di cui è proprietario il ricercatore. Ecco, questo non ha più niente a che fare con la conoscenza, ma con la furbizia di chi vuol fare business attraverso non tanto e non solo la ricerca, quanto le potenziali applicazioni future. Ecco, quello dell'immaginario è un grosso problema che è, appunto, è fuori dalla logica del metodo, ma ricordiamo che tutte le grandi scoperte scientifiche hanno avuto collegati anche delle parole, delle frasi che evocano un immaginario che ne determinano il successo. Per esempio, il termine programma genetico ha avuto molto successo, come altri termini che sono stati coniati, che sono molto utili come evocativi, ma che non sottintendono una realtà corrispondente al termine, per esempio, programma. Non esiste il programma genetico in senso deterministico. E soprattutto non rendono giustizia alla incredibile complessità del nostro essere. E questo invece tende a ridurre a un concetto di programma una cosa molto più complessa e a dargli un valore deterministico immediato che nell'immaginario rende tutto semplice, cioè spiega tutto, ma in realtà è una spiegazione che non corrisponde alla complessità della realtà. Gianni, noi ci affacciamo verso la parte finale della trasmissione. Metto un pezzo musicale, teniamoci pronti perché c'è un messaggio da commentare. Benissimo. Bentornati a Cacciafotone. Siamo nell'ultima parte. E sempre a telefono abbiamo Gianni Tamino. Gianni, io ti volevo chiedere di commentare un messaggio che è arrivato al 333-180-9494. E Paola che ci chiede: visto che state parlando di mondi immaginari, si potrà avere una scienza un giorno senza mercato? Questo è un auspicio che io sottoscrivo, ma che abbia certezza di questo purtroppo non posso dirlo, nel senso che tutte le indicazioni che abbiamo in questo momento è che sempre più assistiamo a un processo di mercificazione dei saperi in generale. Pensiamo alla logica per cui si è arrivati nel tempo, dal 600 in poi, a confinare prima i terreni comuni. Una volta c'erano proprietà comuni, c'erano diritti di uso di beni comuni, eccetera, e questi sono stati un po' alla volta recintati e privatizzati. Siamo arrivati oggi alla privatizzazione, alla mercificazione dei beni immateriali come il sapere, il modo di creare dei copiati.